Se la mia salute si fosse ristabilita e i miei genitori mi avessero permesso, se non di andare a soggiornare a Balbec, almeno di prendere una volta per conoscere l'architettura e i paesaggi della Normandia o della Bretagna, quel treno dell'1:22 sul quale ero già tante volte salito con la fantasia, avrei voluto fermarmi nelle città più belle. Ma avevo un bel metterle a confronto. Come fare a scegliere, non diversamente che tra esseri individuali e non intercambiabili, tra Bayeux, così alta nel suo nobile merletto rossastro, la cima illuminata dall'oro antico della sua ultima sillaba, Vitré, il cui accento acuto disponeva losanghe di legno nero nella sua antica vetrata, la dolce Lamballe, che nel suo bianco svaria dal giallo guscio d'uovo al grigio perla, Coutances, cattedrale normanna, che il suo dittongo finale, grasso e biondeggiante, corona con una torre di burro, Lannion, col rumore di cocchio, nel suo silenzio paesano, seguito dal ronzio della mosca, Questembert, Pont-Orson, ridicole, ingenue, piume bianche e becchi gialli sparpagliate sulla strada di quei luoghi fluviali e poetici. Benaudet, nome appena ormeggiato che sembra voler trascinare il fiume in mezzo alle sue alghe. Pont-Aven, volo bianco e rosa dall'ala di una cuffia leggera che si riflette tremando in un'acqua verde di canale. Camperley, la più solidamente radicata fin dal Medioevo, tra i ruscelli di cui mormora e s'imperla in un chiaroscuro simile a quello che disegnano attraverso le ragnatele di una vetrata i raggi del sole mutati in punte smussate di argento brunito. Quelle immagini erano false anche per un'altra ragione. Erano necessariamente molto semplificate. Senza dubbio, ciò a cui aspirava la mia immaginazione e i miei sensi non percepivano nel presente, se non in maniera incompleta e senza alcuna gioia, l'avevo richiuso nel ricettacolo dei nomi. Forse ora calamitavano i miei desideri, perché vi avevo accumulato una parte di sogno. Ma i nomi non sono molto capienti. Tutt'al più vi potevo far entrare due o tre tra le più importanti curiosità della città, che vi si giustapponevano senza intermediari. Nel nome Balbec, come nella lente convessa di quei portapenne che si acquistano al mare, scorgevo onde innalzarsi intorno a una chiesa di stile persiano. Forse la stessa semplificazione di quelle immagini fu una delle cause della presa che ebbero su di me. Quando un anno mio padre ebbe deciso che saremmo andati a passare le vacanze di Pasqua a Firenze e a Venezia, non avendo lo spazio per far entrare nel nome di Firenze gli elementi che di solito compongono le città, fui costretto a far uscire una città soprannaturale dalla fecondazione, ad opera di certi profumi primaverili, di ciò che credevo essere nella sua essenza il genio di Giotto. Tutt'al più, e poiché non è possibile far rientrare in un nome molta più durata che spazio, come certi quadri di Giotto che mostrano due momenti diversi dell'azione di un medesimo personaggio, qui coricato nel suo letto, là, mentre si appresta a montare a cavallo, il nome di Firenze era diviso in due compartimenti. In uno, sotto un baldacchino architettonico, contemplavo un affresco al quale era parzialmente sovrapposta una cortina di sole mattutino, polveroso, obliquo e progressivo. Nell'altro, poiché non pensando ai nomi come a un ideale inaccessibile, ma come a un'atmosfera reale nella quale mi sarei immerso, la vita non ancora vissuta, la vita intatta e pura che vi racchiudevo, dava ai piaceri più materiali, alle scene più semplici, quel fascino che hanno nelle opere dei primitivi, attraversavo rapidamente, per trovare più in fretta la colazione che mi attendeva con frutta e vino del Chianti, il Ponte Vecchio ingombro di giunchiglie, narcisi e anemoni. Ecco, benché fossi a Parigi, ciò che vedevo, e non ciò che esisteva intorno a me. Anche da un punto di vista puramente realistico, i paesi che desideriamo vedere occupano in ogni momento molto più spazio nella nostra vita vera dei paesi in cui in effetti ci troviamo. Forse se allora avessi prestato più attenzione a ciò che si celava dietro il mio pensiero quando pronunciavo le parole andare a Firenze, a Parma, a Pisa e a Venezia, mi sarei accorto che ciò che vedevo non era affatto una città, ma qualcosa di diverso da tutto ciò che conoscevo, qualcosa di altrettanto delizioso come potrebbe essere per una umanità la cui vita si fosse sempre svolta in tardi pomeriggi invernali, quella meraviglia sconosciuta che è un mattino di primavera. Quelle immagini irreali, fisse, sempre uguali, riempiendo le mie notti e i miei giorni, resero diversa quell'epoca della mia vita da quelle che l'avevano preceduta e che agli occhi di un osservatore che vede le cose soltanto dall'esterno, vale a dire non vede niente, avrebbero potuto confondersi l'una con l'altra, allo stesso modo che in un'opera lirica un motivo melodico introduce una novità che non sapremmo immaginare alla semplice lettura del libretto, o peggio, stando fuori del teatro, a contare i quarti d'ora che passano. E inoltre, anche da un punto di vista semplicemente quantitativo, nella nostra vita i giorni non sono tutti uguali. Per percorrere i giorni, le nature un po' nervose, come era la mia, dispongono, come le automobili, di marce diverse. Ci sono i giorni montuosi e ardui che si impiega un tempo infinito a superare, e i giorni in discesa che si lasciano discendere a tutta velocità, cantando. Durante quel mese in cui rimuginavo come una melodia, senza riuscire a saziarmene, quelle immagini di Firenze, Venezia e Pisa, poiché il desiderio che suscitavano in me serbava qualcosa di così profondamente individuale, quasi fosse stato un amore per una persona, non cessai di credere che corrispondessero a una realtà indipendente da me e mi fecero conoscere una speranza altrettanto bella come poteva nutrirne un cristiano dell'epoca primitiva alla vigilia di entrare in paradiso. Così, senza far caso alla contraddizione insita nel voler guardare e toccare con gli organi di senso qualcosa che era stato elaborato dalla fantasia e che essi non avevano percepito, e tanto più seducente per loro quanto più diverso da ciò che conoscevano, quello che mi richiamava alla realtà di quelle immagini era ciò che infiammava maggiormente il mio desiderio, perché appariva come una promessa che sarebbe stato appagato. E benché la mia esaltazione fosse motivata da un desiderio di godimento artistico, più che i libri di estetica, la alimentavano le guide turistiche e più ancora delle guide l'orario ferroviario. Mi commuoveva pensare che quella Firenze, che vedevo vicina ma inaccessibile nella mia immaginazione, se il tragitto che la separava da me dentro di me non era transitabile, avrei potuto raggiungerla per una via traversa, con una deviazione, per via di terra. Certo, quando mi ripetevo, attribuendo un così grande valore a ciò che avrei visto, che Venezia era la scuola del Giorgione, la dimora del Tiziano, il più completo museo di architettura civile del Medioevo, mi sentivo felice. Lo ero però ancora di più quando, uscito per una commissione, camminando svelto a causa del tempo, che dopo qualche giornata di primavera precoce era tornato ad essere invernale, come quello che trovavamo di solito la settimana santa a Cambrai, vedendo sui boulevard gli ipocastani che, immersi in un'aria gelida e liquida come acqua, non di meno, senza farsi intimidire, cominciavano, invitati puntuali, già vestiti di tutto punto, ad arrotondare e a cesellare nei loro blocchi congelati l'irreprimibile verzura di cui la potenza abortiva del freddo contrastava ma non riusciva a frenare la spinta progressiva, pensavo che il Ponte Vecchio era già cosparso a profusione di giacinti e di anemoni e che il sole di primavera tingeva già il Canal Grande di un azzurro così cupo e di così nobili smeraldi che, venendo a frangersi ai piedi dei dipinti del Tiziano, potevano rivaleggiare per ricchezza di colori con questi. Non riuscii più a contenere la mia gioia quando mio padre, consultando il barometro e lamentandosi per il freddo, cominciò a cercare quali fossero i treni migliori e compresi che, penetrando dopo colazione nel fuligginoso laboratorio, nella camera magica che si incaricava di operare la trasmutazione intorno a sé, ci si poteva svegliare l'indomani mattina nella città di marmo e d'oro, ravvivata di diaspro e lastricata di smeraldi. Così essa e la città dei gigli non erano solamente quadri fittizi da porre a volontà davanti alla propria immaginazione, ma esistevano a una certa distanza da Parigi, distanza che bisognava assolutamente superare se si voleva vederle in un determinato punto della terra e in nessun altro. In una parola, erano assolutamente reali. Lo divennero ancor più per me quando mio padre, dicendo «Insomma, potreste fermarvi a Venezia dal 20 al 29 aprile e arrivare a Firenze già il mattino di Pasqua», le fece uscire entrambe non soltanto dallo spazio astratto, ma da quel tempo immaginario in cui situiamo non un solo viaggio alla volta, ma anche altri contemporaneamente, e senza troppa emozione, poiché sono solo possibili, quel tempo che si ricostruisce così bene da poterlo ancora trascorrere in una città dopo che lo si è trascorso in un'altra, e consacrò ad esse alcuni di quei giorni particolari che sono il certificato di autenticità degli oggetti ai quali li si dedica, perché quei giorni unici si consumano per l'uso, non ritornano, non si può più viverli qui quando li si sono vissuti là. Sentivo che le due città regine, di cui avrei dovuto, grazie alla più emozionante delle geometrie, iscrivere le cupole e le torri nella mappa della mia vita, si dirigevano per esserne assorbite, uscite dal tempo ideale in cui non esistevano ancora, proprio nella settimana che incominciava con il lunedì, giorno in cui la lavandaia doveva riportare il gilet bianco che avevo macchiato d'inchiostro. Ma mi stavo semplicemente avviando verso l'ultimo stadio della esultanza. La raggiunsi finalmente, avendo soltanto allora la rivelazione che nelle calli sciabordanti, arrossate dal riflesso degli affreschi del Giorgione, non avrebbero passeggiato, come malgrado tanti avvertimenti avevo continuato a immaginare, gli uomini maestosi e terribili come il mare, con indosso le loro armature dai riflessi di bronzo sotto le pieghe dei mantelli sanguigni. Ma che forse avrei potuto essere io la settimana prossima, la vigilia di Pasqua a Venezia, il minuscolo personaggio che in una grande fotografia di San Marco che mi avevano prestato, il fotografo aveva ritratto con la bombetta davanti al portale, quando sentii mio padre dire «Deve fare ancora freddo sul Canal Grande, farai bene in ogni caso a mettere in valigia il cappotto d'inverno e la giacca pesante». A quelle parole fui rapito in una sorta di estasi. Mi sentii veramente penetrare, cosa che avevo creduto fino allora impossibile, fra quelle rocce di ametista simili a una scogliera del mare delle Indie. Con una ginnastica suprema e superiore alle mie forze, sbarazzandomi come di una corazza inutile dell'aria della stanza che mi circondava, la sostituì con parti uguali di aria veneziana, quell'atmosfera marina, indicibile e particolare, simile a quella dei sogni che la mia immaginazione aveva richiuso nel nome di Venezia. Sentii operarsi in me una miracolosa disincarnazione che si sdoppiò subito in quella vaga voglia di vomitare che si prova quando si è preso un forte mal di gola, e dovettero mettermi a letto con una febbre così ostinata che il dottore dichiarò che bisognava rinunciare non solo a lasciarmi partire ora per Firenze e Venezia, ma anche, quando mi fossi completamente ristabilito, evitarmi almeno per un anno ogni progetto di viaggio e qualsiasi motivo di agitazione.